tu dici, c'è qualcuno qua. Si riparamelo. Pronto, parliamo con te. Perché io... Ma sei... È vero, è. Davvero. Provando. E beh, Gioffra, a dopo sì. Cazzo dice proprio a fondo scala, vabbè, siamo vizzini. Lui c'è la taglia la sua compagna. E lì c'è la cicola è passata. Vabbè, dai, io vado, dai, che devo consegnare questo alimentatore e poi vado a mangiare. Vedi un portatile, c'era lo spinato rotto, poi dove aggancia il filo all'alimentatore, lì lo stesso. L'ho sistemato, dai. Perfetta. Sono qui. Chiama. Con un pezzo di filo, eh? Oh, fra, quando la taglia non ti risponde, tu chiamano cuoco, ma lui ti risponde dopo. Io già me ne rendo conto perché l'ho visto. Beh, io te l'ho detto, più lontano dal muro è, più libero è. Vai, che hai? Pulsati, fra. Io te lo stavo dicendo. Non c'è fine. Ci sono tutti stancati, per essere. E non rendendo più di più. Certo. Non vedi voi se questi due si unirà di pura puttana a cercare due re. Infatti lo sa, non c'è più nessuno. Lui lo sa digitale, lo sa digitale. Sono tutti arrivati giù, non mi racconti più niente. Ma se sennò... Anche Marco, preferisce guardarsi la televisione che entra al baracchino. Adesso ho formattato il computer e gli ho messo Windows 7. Poi nulla, cosa si può fare?